e tutta la... Resto Radio Convento, sì, per raccontarvi. E benvenuti sabato sera in diretta, direttamente dal convento di Donato, in compagnia di... Mirko. Mirko da dove? Siracusa. Più preciso? Più a Bolzano. Ok, Bolzano Sud abbiamo detto, giusto? Bolzano Sud, Sud. E che cosa fai stasera? Festeggio il mio addio celibato. Quella... Secondo... Ah, secondo tra l'altro. Sì, secondo, giustamente lui è chi è il tuo avvocato, questo? Lui è il mio avvocato. Come ti chiami, avvocato? Come ti chiami? Stefano detto? Stefano. Musu, Musu. Musu? Musu, sì. E perché fa... Perché di cognome fa Musu Mezzo. Ah, ok. Anche lui è sempre di Bolzano Sud, mi sembra di capire. Bolzano Sud, anche lui, sì. Poi abbiamo... Chi abbiamo? Anche io mi chiamo Stefano. Anche tu? Anche io Bolzano Sud. Anche tu Bolzano, tutto a Bolzano Sud. Siracusa Nord. Ah, diciamo. Perfetto. Quindi... Diciamo che Mirko rispetto a me era a nord, perché lui era al quinto piano, io al secondo e nello stesso palazzo. Ah, si vede che è nordico, confronto a te. Sì, sì, sì, assolutamente del si nord. Si sente dall'accento. Si sente. E poi abbiamo? Marco, anch'io da Siracusa Nord. Stesso condominio praticamente. Esatto. Cioè, si è spostato il condominio in sostanza. Insieme a Stefano siamo i testimoni per la seconda volta. Ah, quindi avete detto a noi ci è piaciuto. Riproponiamo questa nostra... Ci riproviamo. Squadra che vince non si cambia. È stata una vittoria. È più, quello è un vostro fan, ecco, gli piace, ecco. È praticamente lui è un venditore di automobili, è un concessionario, vende la Renault. Vabbè, sono i fan. Quindi è il tuo secondo tentativo, come coi Boeri, no? Il cioccolatino, non hai vinto ritenta e l'hai ripescato, eh? Mi è piaciuto sposarmi, quindi l'ho fatto per la seconda volta. Ah, sempre con la stessa, tra l'altro? Ho cambiato. È giusto. È giusto. Come quando fai il tema a scuola, la prima è la brutta copia, poi la seconda fai il tema. Ah, perfetto. Quindi, beh, ecco, sono il numero uno. Secondo lui sono il numero uno. Ma spiegatemi una cosa, cioè, eravate amici al sud, Siracusa, vi conoscevate già? Sì, sì. E siete venuti tutti al nord? Siamo sparsi per l'Italia, ormai abbiamo conquistato come risico tutta l'Italia, cioè il Veneto, le Marche, poi abbiamo sparsi tutta l'Italia. Ah, ma non vivete tutti a Bolzano però? No, sono in due. Vi conoscevate a Siracusa, siete venuti al nord, però vi siete persi di vista qua, in pratica, cioè... siete distanti. Ci siamo ritrovati al convento. Tutti punto d'incontro convento stasera. Esatto. Ma è la prima volta per voi qua? Sì, per me sì. Seconda volta. Ah già, è vero, perché lui celibato. Quello dell'avvocato. Quello dell'avvocato. L'avvocato si è ancora sposato, te avvocato? Sì. Ah, ok. Da quanto? Due anni. Dai, 2 anni. Tu sei durato 2 anni almeno? No, un anno sono durato. Ah, proprio una cosa. È durato poco. Ma era un matrimonio combinato? No, è un combinato voluto, però. Avevi fatto la fuitina e dovevi. No. La famosa fuitina, ragazzi. No, non era una fuitina, però non è andato. Doveva andare così. Vabbè, perché giustamente la brutta copia, adesso hai fatto la bella copia, quindi sei felicissimo. Come hai fatto a chiederle di sposarti? Mi sono inginocchiato sotto le stelle e gli ho dato l'anello. Sotto le stelle in un luogo a caso, cioè. In montagna lontano dall'inquinamento luminoso. Bravo, hai detto, andiamo in un punto dove non c'è inquinamento luminoso per chiedere di sposarla, ecco. E lei ha detto sì subito? Sì, anche perché c'era freddissima e quindi sì, siamo andati subito in macchina e stavamo morendo di freddo. E in macchina poi? In macchina ero contento, sorridevo. È stato tutto contento, tutti. Tu sei stato un po' contento in macchina o... Ah sì, stavo morendo di freddo, ma sì, mi sono scaldato. Ma come vi siete scaldati? Con il riscaldamento della macchina. Ah, proprio una cosa... Sì. Guarda che qua il pubblico, i testimoni sono delusi, cioè... Sì. A casa ci siamo rifatti. Ah, a casa ti siamo... Oh, ok, adesso i testimoni sono contenti, ecco giù. Erano preoccupati perché il siciliano passionale deve venire fuori, se no... Sì. Lei è nordica? Sì. Di Bolzano? Borzano, sì. Col'R? Col'R, quindi doc, proprio... Borzano doc, sì. Oh, fantastico. Hai imparato un po' a parlare in dialetto del Trentino? Io? Loro non hanno un dialetto, hanno il tedesco. Ah, parlano solo in tedesco, non c'è un dialetto. Diciamo che tutti questi anni ancora stiamo parlando con l'italiano prima di tutto. C'è il primo step che è dal dialetto, sì. Perché in Sicilia si parla sempre spesso in dialetto, giusto? Parlaci un po' in tedesco. Parlaci in tedesco, dimmi qualcosa... Auf Wiedersehen, basta. Perfetto, è un ragazzo che saluta spesso così. Vabbè, Bene, si vede che hai imparato tanto. L'educazione è importante. Saluta, giusto? Effettivamente è un ragazzo educato, Mirko, giusto? Quindi l'avvocato è un po' perplesso, dici. No, l'avvocato ha addirittura, lui ha studiato in tedesco, ha un certificato B2, lui è madrelingua d'occo. Non lo puoi dire qua, lascia stare. Ah, lui è certificato, cioè abbiamo. Ok. Tanto sta pregando un altro amico. Si è disperato per Mirko. Ma il matrimonio a Bolzano o in Sicilia? No, a Bolzano, a Pietralba, in un monastero. In montagna. Ok, farà freddo? Siccome il convento era occupato, andiamo in un monastero. Andate in un monastero, giustamente, dato Dio celibato convento, sposo al monastero, piace nozze? Messico e nuvole. Pensavo, non so, il Vaticano, una abbazia, cioè, qualcosa. Invece Messico e nuvole. Ah, ok. Voi andate a matrimonio, c'erate tutti? Sì. Vabbè, siete testimoni. A viaggio di nozze non andiamo. A viaggio di nozze niente. La prima notte di nozze no. Non è meno. Ognuno a casa sua con la prima moglie, meglio così. Ah, okay. Voi siete tutti sposati invece? Io sì. Sì. No, io sono l'unico single. Quindi se dunque vuoi fare un appello alle amiche che ci ascoltano? No, va bene così, per adesso va bene così. Perché una ragazza dovrebbe innamorarsi di te? Non lo so, meglio che non si innamori di me. Proprio così? Sì. Io direi per i pettorali. È un caso perso. Lui usa la tecnica per la croce rossina, no? Dice, quella che si commuove, queste cose. Ragazzi, ditemi un preso di, come ti chiami? Marco. Di Marco, ditemelo un preso, non ce l'ha. I pettorali, pettorali. Ben dotato. Ah, ben dotato. È un pallanutista. Pallanutista, quindi ben dotato. Tu fai la doccia. Mirko fai la doccia con... L'ho fatta tante volte quando facciamo pallanuoto. Sei rimasto soddisfatto? Diciamo che non bisogna prendere la savonetta. Quindi, ho fatto una pubblicità incredibile. Pettoralato e ben dotato. Ma posso raccontare un aneddoto di quando eravamo piccoli? Che lui nega sempre. Dai, ma è vero. Meglio di no. Dai, sarebbe bello. Ho paura. Siccome lui da piccolo era più grosso di tutti rispetto agli altri. No? Grosso cicciotto, dici? No, nel senso anche fisicamente. Era più alto, più sviluppato? Sì, diciamo di sì. Allora faceva un po' il burbero con noi più piccolini. Ah, faceva il bullo. Non è vero niente. Allora, Mirko, mi faceva il prepotente con gli amici. Mi dissocio da tutto. Atti di bullismo? C'era il bullismo? Non l'ho mai fatto, mi dissocio da tutto. Un giorno abbiamo fatto finta di avere il Gatorade. Sì. Che io diciamo, noi lo beviamo, tu no. Lui, siccome era burbero, sì, ce l'ha sradicato mentre eravamo in doccia, ce l'ha sradicato e se l'è bevuto. Ulla, nella doccia? Sì, ma non era Gatorade. Era urina. No, no, bellissimo questa. Però lui nega perché è un burbero. Ma non hai sentito il sapore? Mi sa che era ubriaco, che non mi ricordo niente di questa. Ah, neanche di questa cosa. Però bella come scherzo. Grandi. Vi siete vendicati in maniera buona. Assolutamente. C'eravate tutti quella volta? No, io no. L'avvocato no? No, io vengo da un'altra parte. Ah, tu da un'altra parte a Sicilia, quindi non c'entri niente. Un'altra squadra. Un'altra. No, non si può nominare. Lui era forte. Giocava con una scuola forte, ma che cosa giocava? Pallanuoto. Ah, tutti pallanuoto. Siete tutti. Io no. Giocatori di pallanuoto? Sì, ma Stefano è un bomber nella vita e nella pallanuoto. Ma lo facevamo tutti per la doccia alla fine. Ma il concetto è giocavate a pallanuoto per fare la doccia, cioè era quello lo scopo primario. Ma anche adesso a Bolzano ha giocato a pallanuoto? Abbiamo la squadra, più che giocare siamo allenatore e gestiamo i ragazzi. Ah, ok, quindi siete in persona. Io ancora gioco, ancora me la sento. Gioco e alleno. Serie B, però cavolo, il livello. Siamo stati promossi con la Bentego di Verona dalla Serie C alla Serie B. Beh, caspita, cioè si continuano a scoprire, continui a guadagnare punti qua, guarda che ragazze, fate in fretta. Fate in fretta perché sennò va a ruba, solo per le prime 10 chiamate, ce l'abbiamo un'offerta promozionale, ecco. Fantastico, bello. Vedi, è arrivato la rotina. Lui, ecco. Paolo Beltramo. Che fa? Cosa sta facendo? Lui è Paolo Beltramo. Paolo Beltramo della MotoGP. Ah, Paolo, sì? È lui, no? È lui, un inviato lui speciale. Certo che è lui. Stasera com'è, vi siete divertiti, ragazzi? Bellissimo. Bellissimo. Quindi pensi di fare un terzo matrimonio per tornare o? Si spera di no. Sì. 25 anni di matrimonio vorremmo festeggiarli qua. Ah, no, ok, speriamo. Ottimista. Speriamo. Voi fate delle scommesse, no. I bookmaker come lo danno? io veniamo volentieri a festeggiare l'addio al celibato di Marco. Ah, di Marco, è vero, vero, perché Marco si fidanzerà, esatto, ci tra 25 anni, ragazzi. E poi verrà qua con bello, hai visto che è tutto propiziatorio qua. Lo vedo già, è entrato nel mood proprio. Sì, sì, assolutamente. Mentre l'avvocato, lui è tranquillo, tutto a posto. A livello di doccia? No. Allora, vero, lui era l'avversario, non avete mai fatto la doccia assieme praticamente. No, poi vi manca. Bolzano ha giocato con noi. Ah, quindi l'avete invitato a fare la doccia? Io ogni tanto vado solo per quello. Vai solo per fare la doccia, è vero che... Lo so dire, la luce e l'acqua conviene fare le piscine. Ma una domanda per chi non ha mai giocato a pallanuoto, che magari anche le persone a casa si chiedono, cioè qua, mentre giocate, cioè uno normale, uno che è capace di nuotare mediamente, a un certo punto si stanca, no? Dice voglio mettere i piedi giù, non ce la faccio più, giusto? Diciamo. E voi quando siete, come funziona? Deve allenarsi, non può toccare. Cioè, ma se sei stanco, cioè che non ce la fai più, che... Bisogna imparare a fare la bicicletta, che è quello che ti fa stare su in verticale. Ma cioè tutto il tempo. Quanto dura una partita di pallanuoto? Bisogna allenare 4 tempi da 8 minuti. Ah, 4 tempi da 8 minuti. Quindi vabbè, dai, dopo uno esce un attimo. Sostanzialmente un'oretta. Un'oretta, però esci, no? Dal... No, non ho mai visto una partita di pallanuoto dal vivo, ve lo giuro, ragazzi, faccio schifo. Ho capito, cioè, vergognati per questo che hai detto. Mi vergogno, adesso mi flagellerò. Sei ufficialmente invitato anche a fare la doccia, se vuoi. No, ecco, guarda, rimango sulle tribune, ecco. Oppure metto il costume, quello d'acciaio, quello di ferro. No, scherzo. Comunque, davvero, non so niente, cioè... Allora, com'è che parte la partita? Siete già nell'acqua o vi tuffate? Sì, ci sono 7 giocatori in acqua. Sì. E 6 fuori. Ok. E basta, ci sono poi appunto 4 tempi da 8 minuti effettivi, per cui per questo dura quasi un'ora la partita totale. E basta, cioè, ogni tempo c'è un'interruzione di 2 minuti, quindi è lì che ti puoi riposare. Ma esci dall'acqua? Sì, puoi uscire. Ah, poi puoi fare entrare e uscire, non è che è come nel calcio, tu puoi entrare, puoi uscire, puoi entrare, puoi uscire. Ah, se sei stufo. Sì, diciamo, quando il gioco fermo puoi cambiare. Quando fanno un gol ti cambia il mister che stai morendo. La sostituzione. Sì. Ma se tu stai morendo e vuoi uscire, dici voglio uscire un attimo, devi non puoi. Devi entrare nell'angolo, là ci sarà un altro tuo compagno che appena tu esci, lui può rientrare sempre da questo angolo. Però l'arbitro non deve saperlo, cioè non devi fermare il gioco come nel calcio. No, c'è una giuria che vede che se tu esci in questa zona limitata e entra quello subito dopo, non succede niente. Quando sei in attacco, quando hai la palla, no, anche quando sei in difesa, puoi farlo quando vuoi. Ma la bravura di un giocatore dov'è? Cioè, dov'è che dici, cavoli, quello lì è un fuori classe. Ecco, qui vorrebbe parlare Stefano, che è stato un campione di pallanuoto, che è un bomber. Stefano, cos'è la cosa più importante della pallanuoto? Le stiche a Marco. Passate la palla in questo modo, arriviamo di nuovo a lui. Ci sono diverse cose, tra cui sicuramente il nuoto e poi la tecnica individuale, tra cui il tiro, il palleggio, il passaggio. La cazzimma. E invece il portiere alla fine è quello che fa di meno, no? Cioè, i sta portieri lì... sono quelli che non fanno niente. Non fanno un cacchio. Il portiere è il portiere che se fa una minchiata tutto lo ammazzo, perché è fondamentale, quindi deve, non nuota, ma deve essere sempre attento e non faccia minchiate. Quindi il ruolo più importante è il portiere, o no? Tutti è un ruolo portanti. Fondamentale tutti. Quello del portiere. L'attaccante e il difensore. L'attaccante e il difensore, cioè... No, mi sembra assurdo, ma io non avendo mai. È tutto nuovo per me, anche da casa qualcuno sarà interessato a questa cosa. Tra l'altro in questo periodo ci sono i mondiali sia maschili che femminili del sette rosa, del sette bello, per cui se qualcuno volesse addentrarsi in questo sport può guardare i mondiali. Sono di notte perché sono in Giappone. Perfetto. Però magari è una bella iniziativa per approfondire questo sport. E se qualcuno vuole venirvi a vedere invece, dove deve andare? Allora, se volete vedere una bella partita di pallanuoto, andate in Serie B a vedere Marco. Soprattutto voi donne, ragazze, è bello da guardare in costume. Ecco, quindi alle ragazze single, vogliosissime. Bravo, allenatore, giocatore. Giocate, Marco. E come si chiama la squadra? Dove? Si chiama Bentego di Verona. Quindi nuoti a Verona tu? Sì, a Verona. Ah, ok, quindi basta, è facile da trovare. Sì. Piscina comunale, no, piscina... Sì, ha un nome. Piscina Monte Bianco. Piscina Monte Bianco, troverete il nostro... Marco Ali. Marco Ali. Se no venite a Borzano. Ecco, sempre. In via Maso della Pieve, che fa la Bolzano Pallanuoto in serie, in promozione o squadra giovanili. Perfetto, perfetto, bellissimo. Cioè, sì, tra poco stiamo in chiusura, ragazzi. Tra l'altro c'è una fan, ha visto? Hai già trovato? Vai via. Abbiamo trovato una ragazza per Marco. È nuova? No, scherzo, no, ascoltava la radio. Ma è una fan. No, spero di no. Ti desidera il colpo di scena, guarda. Guarda. Madonna. Subito ti sta buttando, incredibile. Ok, ragazzi, dobbiamo interrompere subito perché abbiamo già una fan che chiede. Ok, un saluto, ragazzi, saluto Mirko. Andate, ragazzi, e moltiplicatevi. Grazie. Prossimo matrimonio ce l'abbiamo già, eh. Ok. Ciao, ragazzi. Ciao.